Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Meris, benvenuti a Smart City. Abbiamo visto già altre volte come tra i rifiuti si annidino, diciamo così, delle opportunità del tutto impreviste che saltano fuori ogni volta che si trova un modo nuovo per trasformare un rifiuto in una nuova materia prima. È di una di queste storie che parliamo questa sera con l'ingegner Valerio Pontarolo, presidente della Pontarolo Engineering, che è tornato a trovarci. Buonasera Pontarolo. Buonasera, buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Dunque, ingegner Pontarolo, c'è una storia che lei mi ha raccontato e di cui adesso ci può parlare pubblicamente, perché questa storia porta dei brevetti e, come si sa, finché i brevetti non sono registrati è meglio non fare troppa pubblicità. Allora, questa storia chiama in causa del pollame, chiama in causa l'energia, il risparmio energetico e un signore che lei incontra, credo, se ho capito bene, a Bolzano, alla fiera di Casa Clima. Cosa succede? Succede che nel mio stand a Clima House, alla fiera di Bolzano, mi si presenta un signore anziano di 88 anni, che si chiama il dottor Menegatto, Mario Menegatto. Mi si presenta e mi dice: guardi che io ho una tecnologia per poter fare in modo di recuperare gli scarti dalla macerazione del pollame, poli e tacchini, che sono le piume di pollo che oggi rappresentano un problema per il loro smaltimento e potrebbe essere interessante per l'edilizia. Bene, lì per lì avevo anche gente, non gli ho dato molto peso. Anche perché questo signore, diciamolo, adesso lei non lo vuole dire, ma non si presentava come dire, un uomo d'affari, ecco, non sembrava, no? No, è un signore anziano con due occhi trasparenti ed onesti, però non sembrava un consulente della vecchia Andersen Crusade. Non sembrava un ricercatore. Diciamo, no? Ecco, e niente, mi dà un suo bigliettino da visita, un bigliettino di visita un po' sgualcito che ce l'avevano in tasca. Vado a casa e mi documento un poco, e questo signore qua a suo tempo aveva inventato dei sistemi per ricavare dal mais l'amido con cui si fa i sacchetti ed altre cose. Con cui oggi si fanno diciamo alcune bioplastiche, cosiddette. Sì, alcune bioplastiche, insomma una persona che ho reputato molto interessante, ma soprattutto credibile. Ho detto: andiamo avanti. Bene, la faccio corta. In giugno di quest'anno abbiamo depositato assieme a lui due brevetti per lo sfruttamento di questa, che per noi diventerà delle piume, prima, delle penne, dei polli che noi compriamo al supermercato e che qualcuno, qualche macchina ha spennato, tra l'altro operazione faticosissima da fare a mano, ha spennato precedentemente. Noi ci troviamo il nostro pollo spennato. Quelle penne lì sono un macello, mi scusi, da smaltire. Tra l'altro la cheratina di cui sono fatte non brucia, così come anche il pelo animale. Sono materiali organici ma difficilissimi da smaltire, sono un problema. Esatto, quindi queste piume di pollo che in Italia, attenzione, stiamo parlando di 15 milioni di tonnellate, ecco, che non si riesce a usare perché è quasi come se fosse un inerte, perché non brucia, non è appetibile, non viene digerito né da animali piccoli né grandi né piccoli. Sì, è un sasso praticamente. Ma anche se noi sotterriamo le piume di pollo e scaviamo dopo 100 anni, le troviamo ancora lì. Sì, sì. Ecco, il processo da noi brevettato, assieme al dottor Mario Menegatto, consente di ricavare dei fiocchi, dei fiocchi formati da fibre di cheratina derivanti dalle piume di pollo o tacchino, comunque di volatili, che attenzione è una cheratina un po' diversa da quella dei capelli, da quella delle unghie e certo, da quella certo, anche della lana di pecora. Okay. Quindi da questa cheratina noi ricaviamo queste fibre sotto forma di fiocchi, i quali fiocchi poi trattati permettono di ottenere dei pannelli isolanti ed acustici che sono assolutamente ignifughi, non rappresentano un nido per nessun tipo di animale, non sono digeribili, eccetera, eccetera, che hanno delle grosse valenze nell'ambito edile e sono assolutamente naturali, e per essere mantenuti compatti non abbisognano di nessun tipo di collante. È assolutamente il pannello formato da cheratina pura al 100%. Ecco, per dire, i pellet vengono prodotti, quelli che bruciamo nelle stufe, proprio per compressione, perché lì la cellulosa fa da collante. E qui è la stessa cheratina, diciamo che grazie a qualche processo, non so quale. Sì, per rendere il concetto, diciamo che le fibre si incastrano fra di loro e come in un tessuto. Ok, senta, 15 milioni di tonnellate di penne in Italia. Mi pare che in Cina, per esempio, mangino molto pollame. Sì, in Cina il problema, difatti, è proprio di qualche giorno fa, ho avuto un incontro con dei cinesi che sarebbero interessati anche loro a questa tecnologia e vorrebbero cercare di svilupparla. Perché c'hanno quanti e quanto da smaltire loro? Ma siamo sull'ordine delle 150 milioni di tonnellate. Quindi 10 volte di piume da smaltire. Sono numeri enormi e noi ci siamo rivolti anche a loro perché le ricerche che sono assolutamente originali su questo campo, no? Sono ricerche molto importanti, molto costose e forse non vorrei dire che sono anche superiori forse alle nostre forze. Okay. No? Quindi cerchiamo dei partner per poter affrontare questo tipo di ricerca assieme. Grazie ancora Valerio Pontarolo. Grazie a lei e grazie a tutti i suoi ascoltatori. Beh, non so voi, ma stasera mi sento più leggero. Buona serata e appuntamento a domani.